Hashtag autotrasporti. Hashtag autotrasporti, buon pomeriggio e ancora auguri da Andrea Ferro. In questa puntata tra Natale e Capodanno ci occupiamo dei provvedimenti inseriti nella legge di stabilità che riguardano il mondo dell'autotrasporto, quindi uno sguardo rivolto alla rete stradale ed autostradale con l'apertura della variante di valico lungo la A1 e con il nuovo monitoraggio dei flussi veicolari da parte di ANAS. La legge di stabilità in apertura, per parlarne siamo collegati con Amedeo Genedani, presidente di Unatras. Buongiorno Genedani. Buongiorno. Potremmo dire che in linea di massima il governo ha recepito le istanze presentate dalle associazioni degli autotrasportatori. Devo constatare che la legge di stabilità contiene e conferma quanto concordato nel merito sia delle risorse che delle norme. Ma andiamo nello specifico delle misure inserite nella legge di stabilità. Per fare il punto, in primis la conferma dei 250 milioni strutturali che verranno ripartiti come gli anni precedenti in formazione, investimenti, spese non documentate, pedaggi e servizio sanitario nazionale. A questi 250 milioni si affiancano ulteriori 160 milioni che dovrebbero essere per 4 anni dedicati al mondo sempre dei trasporti contro terzi, che serviranno a consolidare il capitolo di spese non documentate per gli artigiani con 35 milioni di euro che, sommati ai 60 provenienti dalla ripartizione dei 250, porteranno alla copertura di 95 milioni di euro il capitolo in totale. Un nuovo strumento per incentivare il combinato mare bonus di 40 milioni e il ferro bonus 20 milioni ed infine la decontribuzione dei conducenti che vale circa 65 milioni di euro. Conducenti si intende anche chi conduce il veicolo in prima persona, quindi il monoveicolare, e dare la possibilità ai nostri vettori di competere in Europa. Infine 10 milioni di euro per riattivare il fondo speciale autotrasporto del Medio Credito Centrale, che può finanziare, è autorizzato questa volta a finanziare anche veicoli di ultima generazione, quindi Euro 6. E sul tema delle regole? Sul tema delle regole, il completamento ormai della famosa inversione dell'onere della prova con l'approvazione dell'articolo 46 ter voluto dagli organi preposti al controllo, i quali non avranno più l'alibi per il controllo sul cabotaggio di dire non si riesce a fare, quindi speriamo che aumentino i controlli sul cabotaggio, che è una piega importantissima. Al di là di quanto stabilito dalla legge di stabilità, sul tappeto restano altre questioni. Sicuramente ci abbiamo in cantiere altre cose che erano anche scritte sempre in questo verbale, perché c'è la presentazione dei tempi di pagamento, che è una piaga grossissima nel mondo, diciamo ormai vorrei dire nell'economia italiana in genere, ma soprattutto nell'autotrasporto. C'è il punto che riguarda le deroghe alle norme comunitarie sui tempi di guida e di riposo. Come avevo già detto in precedenza, in Germania ne hanno 17, in Italia solo 5, qui si dovrebbe approfondire con un tavolo dedicato questo discorso e quindi portare a casa delle deroghe in più. E poi c'è sempre in ballo quei famosi 45 minuti, sempre sui tempi di guida e di riposo, che dovrebbero dare per raggiungere, diciamo, le mete che possono essere porti, interporti o anche la sede dell'azienda è in osservazione a livello europeo, speriamo che arrivi anche questa. Avevate sollecitato una rimodulazione dei divieti di transito nei giorni festivi e prefestivi, in particolare nei fine settimana di luglio, con un'attenzione particolare all'ultimo sabato del mese, ma proprio prima di Natale è stato reso noto il calendario 2016, calendario che non contempla le vostre richieste. No, non è stato recepito per niente quello che avevamo proposto, l'unica cosa che è passata in più quell'ora giornaliera è finita lì, ma noi speravamo e non auspicavamo nel venerdì e anche in quel sabato famoso, ma non sono arrivati purtroppo. Amedeo Genedani, presidente di Unatras, grazie e auguri. Ringrazio tutti e buon anno a tutti. Lungo la A1, mercoledì scorso, è stata inaugurata la variante di valico, un'opera strategica per avvicinare Bologna a Firenze e quindi accorciare spazi e tempi di percorrenza. Concepita ormai più di 30 anni fa, la variante è stata realizzata in 9 anni, 41 gallerie e altrettanti viadotti. Secondo le previsioni, sul nuovo tratto si sposterà il 90% del traffico pesante e il 40% di quello leggero. Così l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci il giorno dell'inaugurazione. Il valico sarà più basso di 226 metri, 30% di risparmio di tempo, 100 milioni di litri di carburante e più o meno 100 milioni di euro di valore del tempo perso in meno grazie a questa nuova opera. Rimaniamo sulle strade. ANAS ha istituito un osservatorio permanente che racconta statisticamente l'Italia in movimento, monitorandola attraverso i flussi veicolari rilevati lungo i 25.000 chilometri della rete sotto la sua gestione. Come vi avevamo già riferito nelle puntate precedenti, il primo dato emerso, quello relativo a novembre, è da intendersi incoraggiante lungo la strada ancora tortuosa verso la ripresa. Rispetto a quanto accaduto 12 mesi prima, infatti, a novembre è stato registrato un aumento dell'indice di mobilità rilevata, in sostanza dei flussi veicolari, pari al 3,3% su base nazionale, con un picco del 5,2% registrato al sud. Ancora più significativo l'incremento relativo al traffico dei mezzi pesanti. È praticamente il doppio, più 6,8%. Claudio Arcovito, responsabile brand e immagine di ANAS, ci spiega come funziona questo osservatorio. Tecnicamente l'osservatorio utilizza le informazioni che vengono raccolte da un complesso sistema di sensori che sono distribuiti lungo i circa 25.000 chilometri di strade e autostrade in gestione di ANAS. Quindi stiamo parlando di circa 1.150 sensori. Questi sensori raccolgono una serie di informazioni, oltre a contare fisicamente il passaggio dei veicoli, riescono anche a intercettare la tipologia, cioè se si tratta di un veicolo, appunto, di una macchina o di un veicolo pesante. Dopodiché questi dati vengono inviati a un sistema centralizzato di ANAS, che è denominato Panama, che fondamentalmente verifica la coerenza, la funzionalità e quindi la coerenza dei dati, li corregge, li elabora e poi li mette a disposizione, degli operatori che possono così poi estrarre questi dati per fare queste analisi. Dati che costituiscono un ulteriore indicatore per l'analisi socio-economica del paese, ma questo osservatorio è innanzitutto uno strumento operativo a disposizione di ANAS per tarare gli interventi sulla rete. Ci hanno dato già oggi una serie di elementi importanti, interessanti. Faccio un esempio: l'apertura adesso recentemente della bretella sulla A19, quella che ha ha girato il viadotto Himera. Ecco, grazie anche ai dati che abbiamo oggi a disposizione, abbiamo già notato che il traffico si è praticamente ristabilizzato ai valori pre-interruzione, quindi con una velocità media di circa 100 km orari lungo tutta la tratta e con un risparmio rispetto al passato, a quando c'era questa interruzione, che quindi si dovevano fare dei percorsi alternativi. Ecco, rispetto ai percorsi alternativi ha un risparmio di circa 25 minuti. I dati vengono elaborati e scorporati focalizzandoli su ambiti specifici. E per ogni focus specifico ovviamente diamo sia i dati sull'indice di mobilità rilevata, che ci dice fondamentalmente, un indice che ci dice quanto traffico c'è stato mediamente al giorno in quella tratta, divisa sia per il totale dei veicoli che con un focus sui veicoli pesanti, differenziato tra giorno e notte. Quindi si danno una serie di informazioni, si dà l'informazione per esempio su dove sono stati e quando i picchi di flussi veicolari. Sulla base dei dati relativi a novembre, è il grande raccordo anulare di Roma l'arteria più trafficata tra quelle gestite da ANAS. Giusto una pillola statistica: venerdì 6 novembre sono transitati 157.604 veicoli, praticamente il record del mese. Prima si parlava del viadotto Himera lungo la Palermo-Catania, il cui cedimento ad aprile aveva spezzato in due la Sicilia. La carreggiata in direzione Catania è stata demolita nei giorni scorsi al termine di un intervento piuttosto delicato. Tra definizione del progetto, gara d'appalto e lavori, si prevede che il nuovo viadotto sarà aperto non prima dell'estate 2018. Nel frattempo, nel tratto interrotto, si transita lungo il bypass aperto a novembre. Hashtag Autotrasporti finisce qui. Noi ci risentiamo giovedì mattina all'appuntamento alle 6.30 con un altro speciale. Praticamente il racconto di viaggio delle merci, un giro d'Italia tra voci e testimonianze di chi trasporta di tutto e ovunque per garantire gli approvvigionamenti e quindi far fronte alle esigenze della nostra quotidianità, dalle famiglie alle aziende. Grazie per l'attenzione e ancora auguri da Andrea Ferro. Hashtag Autotrasporti.